tampone. Infatti il tampone è top. No, domani la tagliamo. No! No, perché non lo faccio? È una macchina nuova. Hai la macchina nuova? No, no, no. Marotta. Oh!